ascolti? Sì, avanti. Ma se mi senti, sto chiedendo. Certo che ti sento, se ti sto rispondendo vuol dire che già ti sento. Ma tu hai le orecchie pelose, quindi non è che posso fidarmi solo di quello che mi dici, eh? Ah, e se mi dici ma così... Ciao Natale, come stai? Meglio, va, diciamo meglio. Come stavo prima. E questa voce da oltre tomba. Nella stazioncina piccolina, dai. Non arrivo benissimo lì, ma riesco a farmi sentire un pochino. Ehi, non arrivi bene, è 9.5 sì, qua. Allora già va bene, pensavo peggio, per essere con l'antenna di macchina. No, sta arrivando 9.5 qua. Ho guardato apposta, anche se piccola la stazioncina. Sì. Già stai arrivando qua. Ah, sì. E la voce anche è forte. Solo un po' telefonica mi rimane. In realtà, lo sai, il più 5 è così. Va bene, dai, sono entrata a salutarti, Natali, che sto facendo cosa qua dentro. Faccia, stavo cercando a vedere se c'era Antonio qua, che gli devo dire cosa, e invece deve essere che non v'è. No, non l'ho sentito, io sono da un po' qua in ascolto, ma non ho sentito nessuno. Sono rientrato adesso, siccome è venuto qua e mi stava cercando, però io non c'ero, ero fuori, e quindi gli dovevo dire una cosa. Vabbè, là, no problem. Riprendi al tuo da fare, non ti disturbo oltre. Natale, niente disturbo, dai. Diciamo che è un passatempo, è una cosa che mi piace fare, quindi la sto facendo con gusto. Niente disturbo. Va bene, ciao, ci divertiamo. Ciao.